nessuno pensa ciò che ha, ma ciò che non ha avuto, conti in tasca dall'auto, profitto ottenuto. Mancanza di onestà è colui che lotterà finché il suo nome non sarà nella Bibbia della criminalità. Resti sveglio per l'angoscia, un'altra giornata moscia che ti lascia col pensiero di un domani che si corregge, dove ognuno avrà il suo eroe che lo protegge. In sta città che somiglia a un pasticcio, cerchi il modo più spiccio per uscire dall'impiccio. Sto mondo pare un poker, bisogna spingere, è da quando hai bisogno di un punto per vincere. Basta darsi da fare, scansare la ghigliottina, chi rima chi concima, chi si affida a una santina. Passi falsi senza alcuna cognizione, gente senza cuore e gente senza nome. Ciò che sa ma ciò che non ha saputo, pensieri a pelle da cosciente ma disilluso. L'ignoranza non è una pecca ma una virtù, e finché tu non ti poni sti problemi e perdi più, ti tieni lontano da chi ci crede meno di me. Chi al contrario di me pensa solo alla cachè, che è cliché. Anche se in ogni dove le danno nuove, anche se non già sentite 19, non si dimentica. Tra discorsi a sé stanti, chi brama vendetta tiene le sue ferite sanguinanti, mentre chi è conosciuto perché dissoluto affogò perché si vergognava a chiedere aiuto. L'orgoglio è un nemico, un alleato traditore, nel momento del bisogno ti pugnala dritto al cuore. Passi falsi senza presa di posizione, gente senza cuore e gente senza nome. Le sensazioni sono quelle, finché la ragione non è spella e il tuo spirito ribelle. Cambiano gli sguardi ma meglio stare allerta, il coraggio aspetta, la paura ti cerca. Guardati attorno e respira a fondo, come disse Shakespeare, è una bella prigione il mondo. Scelte sbagliate senza termine di paragone,